Storie italiane. Il mercante di Venezia. Nella bella città di Venezia viveva un ricco mercante chiamato Antonio. Ehi, Antonio! Bassanio, è passato tanto tempo. Come vanno i preparativi per il matrimonio? Shylock, signore, domani ripagherò il debito, lo prometto! Un patto e una promessa è una promessa! Hai promesso di pagare i soldi entro oggi! E se non riesci a pagare, hai promesso di darmi il tuo negozio! Non paghi? Quindi mi darai il tuo negozio! Il mio prestito è solo di 50 ducati! Il mio negozio è molto più costoso di così! Avresti dovuto pensarci prima di impegnare il tuo negozio con me! Adesso togliti di mezzo! Shylock, aspetta! Ecco, 50 ducati che Mercanio ti deve! No! Perché dovrei prendere i tuoi soldi? Mercanio avrebbe dovuto pagare entro oggi! E oggi non è ancora finito, Shylock. Ci sono ancora delle ore prima del tramonto. Ecco qui i soldi. Lascia il suo negozio in pace, altrimenti mi lamenterò di te in tribunale. Antonio! Grazie mille, Antonio. Ti ripagherò sicuramente domani, lo prometto. Ne sono sicuro, Mercanio. Antonio, sei incredibile. Quel diabolico Shylock deve odiarti. Dimenticati di lui. Dimmi, come stanno andando i tuoi preparativi per il matrimonio? Tutto bene. Stanno andando bene, grazie. C'è qualche problema, Bassanio? No, tutto va bene. Tu ed io siamo amici. Dimmi, cosa c'è che non va? Aspettavo dei soldi questa settimana, ma non arriveranno nemmeno nei prossimi 5 mesi. Ed ho già fatto degli acquisti, per cui devo pagare. Quanto? 3.000 ducati. Sono un sacco di soldi. Lo so, avevo acquistato un anello per Portia e volevamo fare un banchetto per 500 poveri e offrire loro doni per il nostro matrimonio, ma ora non so cosa fare. È così, nobile Bassanio. Ti presterei volentieri i soldi, ma nemmeno io ho 3.000 ducati in questo momento. Ma le mie navi torneranno fra 3 mesi e allora avrò migliaia di ducati. A quel punto sarà troppo tardi. Il matrimonio è la prossima settimana. Forse ho un'idea. Vieni con me. Oh, quell'Antonio! Se non avesse interferito, avrei avuto un negozio del valore di 500 ducati per 50 ducati! Sempre a infilarsi nei miei affari! La pagherai, Antonio! Un giorno la pagherai! Shylock? No, Antonio. Non ti lascerò prendere soldi da Shylock. Sai che è un imbroglione. È solo questione di 3 mesi, Bassanio. Una volta che tutte le navi saranno tornate, potrò ripagare facilmente i 3.000 ducati. Shylock? Antonio? Ho bisogno di soldi. Tu che vai a donare soldi per rovinare la mia attività, hai bisogno di soldi? Sei ingiusto, Shylock, e lo sai. Ho bisogno di 3.000 ducati. 3.000 ducati? Questa è la mia occasione per rovinare Antonio e rifarmela per tutte le volte che mi ha insultato e ha rovinato i miei piani. Bene, ti darò i soldi senza alcun interesse. Ma se non potrai rimborsare l'intera somma entro 3 mesi, tutto ciò che ti appartiene diventerà mio. D'accordo? Questo è davvero barare, Shylock. Antonio, andiamo. Non ti preoccupare, Bassanio. Le mie navi torneranno tra 3 mesi. Sono già partite dall'Africa. Non abbiamo niente da temere. Hai bisogno dei soldi ora, amico. Bene, sono d'accordo. Bassanio era preoccupato per Antonio. Sapeva che non ci si poteva fidare di Shylock, ma Antonio era fiducioso. Shylock gli diede 3.000 ducati e Bassanio poté ora portare avanti i suoi piani per il suo matrimonio. Bassanio si stava per sposare con una bella, saggia e intelligente fanciulla di nome Portia. Diede a Portia il bellissimo anello che voleva che lei avesse e insieme Portia e Bassanio condivisero le loro ricchezze con i poveri. Fecero per loro una festa e diedero loro doni. Grazie, Antonio. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di te. Dai, Bassanio. Come potrei non aiutare in una così nobile festa di matrimonio? No, veramente, Portia. Antonio ha rischiato tutto quello che ha con quel malvagio Shylock solo per darci 3.000 ducati per il matrimonio. Che cosa? E tu gliel'hai lasciato fare, Bassanio? Non preoccupatevi. Una volta che le mie navi torneranno dal mare, avrò un sacco di soldi. Passarono i mesi. Bassanio e Portia erano molto felici insieme e Antonio era come una famiglia per loro. Presto fu il momento per Antonio di restituire i soldi a Shylock. Maestro, c'è un messaggio del tribunale per te. Che diamine? Che cos'è? Bene, Shylock mi ha chiesto di presentarmi domani in tribunale, dove sarò processato per non aver restituito i suoi soldi. È già il momento? Sono sicuro che abbiamo almeno altri 10 giorni prima della data di restituzione del denaro. Perdonatemi, maestro, ma posso dire qualcosa? Certamente, Rebus. Cos'è? Lord Shylock è conosciuto per cambiare le date nei suoi contratti. Potrebbe aver cambiato la data da 18 a 8. Che cosa? Aspettate. Non potete arrestarlo in quel modo. Domani deve comparire in tribunale e Lord Shylock Thunders vuole che lo arrestiamo così che non possa scappare. Antonio! Oh! Cosa c'è? C'è stata una tempesta nel mare! Le navi di Antonio! Sì, le navi. Ma Shylock non aspetterà un altro giorno. E con questo messaggio, il mio amico è condannato. No, non lascerò che Antonio abbia dei guai. Vai da lui, Bassanio, e non dirgli della tempesta. Non dire niente. È tempo che Shylock venga insegnato una lezione. Io stessa farò da avvocato ad Antonio a corte. Tu? Come? Tu stai con il tuo amico. Non dirgli nulla. Non ti preoccupare, non lascerò che succeda qualcosa di male, d'accordo? Ah, mi fido di te. Il giorno dopo Antonio fu portato in tribunale davanti al giudice. Gentiluomini, che cosa abbiamo qui? Lord Shylock Thunders contro Antonio Bacillus. Che il processo abbia inizio. Beh, il caso è piuttosto semplice, vostro onore. Antonio mi deve 3.000 ducati. Nel momento in cui gli ho prestato i soldi, lui mi ha promesso che se non avesse restituito i soldi entro oggi, tutto ciò che gli appartiene sarebbe diventato mio. Ha modificato la data del contratto, signore. Silenzio, signor Thunders, vorrebbe mostrarmi il contratto? Eccolo, vostro onore! Ma certamente, signor Thunders, la proprietà del signor Antonio vale molto più di 3.000 ducati. Perché non prende solo un po' di quello che copre l'importo? Mi spiace, signore. Antonio stesso ha firmato il contratto. Un patto è un patto. Una promessa è una promessa. Signor Antonio, come ha mai potuto firmare un simile assurdo contratto? Signor Thunders, ci pensi? Questo è inumano. Così è, vostro onore. È perfettamente legale. E tutto quello che chiedo è che Antonio onori un contratto firmato legalmente e onori la sua parola. Il signor Shylock Thunder ha ragione, vostro onore. Il signor Antonio deve onorare il suo contratto che lui stesso ha firmato. Signor Thunder, come da contratto, se il signor Antonio non paga l'importo richiesto entro oggi, tutto ciò che appartiene a lui diventerà vostro, giusto? È giusto! E siete sicuro di non volerci pensare? Affatto! Un patto è un patto, una promessa è una promessa! Ottimo! Vostro onore, quindi tutte le perdite del signor Antonio in mare apparterranno al signor Thunder e saranno a carico suo. Perdite in mare? Sì, guarda tu stesso. Questo è arrivato ieri sera. C'è stata un'enorme tempesta sulla costa del Mar Mediterraneo, da dove sarebbero dovute arrivare le navi. Dovrai prenderti cura delle perdite, che saranno intorno ai 20.000 ducati. Ovviamente no! Mai! Dicendo che possiedi tutto ciò che appartiene al signor Antonio in tutta onestà significa anche tutti i profitti, le proprietà e le perdite che appartengono al signor Antonio. È un imbroglio, vostro onore! Un patto è un patto, una promessa è una promessa. L'avvocato ha ragione. Dovrà prendersi carico di tutte le perdite del signor Antonio. Gli perdono i 3.000 ducati. Non voglio i miei soldi indietro né il contratto. Basta, signor Thunders. Il suo comportamento dimostra che ha deliberatamente assecondato un contratto che sapeva essere ingiusto. Ciò pone un serio punto interrogativo sulla sua onestà e integrità. Pertanto, questo tribunale le impedisce di stipulare ulteriori contratti fino a quando tutti i suoi rapporti saranno accuratamente esaminati. Portatelo via, ufficiali! Tutte le mie navi sono perse in mare? C'è stata una tempesta in mare. Torna a casa con me, Antonio. Hai bisogno di riposare. Antonio fu molto rattristato nel sentire che le sue navi erano perse in mare. Bassanio lo portò a casa. Ho perso tutte le mie navi. Sì, temo di sì. Perché stai ridendo? Dammi un minuto, Antonio. Bassanio, chi era l'avvocato che è venuto in tribunale per difendermi? Vuoi incontrarlo? Eccolo, eccola. Portia, eri tu? Sì. E mi spiace per le tue perdite. Cosa c'è di sbagliato in voi due? Perché state ridendo? Ho perso tutte le mie navi. No, non hai perso niente. Una terribile tempesta ha colpito la costa del Mar Mediterraneo alle ore 15. Questa è solo metà del messaggio. L'altra metà è qui. Ma non preoccuparti, Antonio. Siamo usciti dalla zona alle 10, molto prima che arrivasse la tempesta. Tutte le tue navi e le tue merci sono al sicuro. Le tue navi arriveranno a Venezia entro il 20 di questo mese, ma... Abbiamo mostrato solo metà del messaggio a Shylock. Anche il magistrato voleva insegnare a Shylock una lezione e così non ha detto niente quando ho mostrato a Shylock solo una pagina del messaggio. Shylock non userà mai più dire che un patto è un patto e una promessa è una promessa. Portia, il mio amico Bassanio è un uomo molto fortunato per aver sposato una donna saggia, intelligente, coraggiosa e in gamba come te. Grazie.